call me Francis. Come buia questa nu. Come buia questa no. Come buia questa notte, come buia la città, le tue mani, mio signore. Oh no.